scende in strada in difesa di XM24 e dell'autogestione. Contro il nulla che avanza. Sabato 29 giugno, ore 16, piazza 20 settembre, Bologna.